per spiegare il senso di questa iniziativa. Innanzitutto devo dire subito che mancano due persone rispetto a quanto annunciato nel manifestino di indizione. Mancano Cosimo Scarinzi, che ha avuto dei problemi, diciamo così, di carattere di salute, non può essere presente. Poi manca Valerio Evangelisti, perché immagino che i suoi impegni gli abbiano impedito di partecipare. Comunque gli oratori, i compagni che sono qui seduti al tavolo avranno più spazio per i loro interventi. L'idea era quella che il dibattito servisse, oltre alla rievocazione storica e a sottolineare l'importanza che ha avuto l'IVV nella storia del movimento operaio, nella storia del movimento operaio americano e nel panorama del sindacalismo rivoluzionario internazionale, era quella che questo dibattito, l'iniziativa che abbiamo pensato, servisse anche in qualche modo, tramite il dibattito che ci sarà dopo, a non rendere questa semplicemente una celebrazione o una rievocazione storica di eventi che ormai sono molto lontani, ma servisse in qualche modo, con tutte le difficoltà che ci sono, a attualizzare questa esperienza. Spiego il senso in cui abbiamo noi inteso il termine attualizzare. Evidentemente ci sono delle differenze di contesto, sia temporale che spaziale, rispetto all'esperienza dell'IVV, che impediscono di considerarla, io esprimo adesso delle mie opinioni personali, un qualcosa in qualche modo di ripetibile. Però un certo tipo di idea che il sindacalismo sia ancora uno strumento potenzialmente, se non rivoluzionario, in grado di intaccare, io parlo del sindacalismo, quello rivoluzionario dell'IVV, dell'USI in Italia, della CNT spagnola, della CGT francese, cioè il sindacalismo che si proponeva anche come soggetto politico, non solo come soggetto sindacale. L'idea era quella che, siccome ci sono ancora oggi poi esperienze di segno diverso che operano diciamo in questo settore, adesso non le elenco per non far torto a nessuno, però le conosciamo tutti, sia in Italia che in altri paesi, che si potesse, partendo da questa, diciamo da qui, questa tavola rotonda, da questa iniziativa, aprire un dibattito che vada un pochino più lontano, perché in effetti si tratta in qualche modo, scusatemi l'immagine abusata, di un filo rosso della storia del movimento operaio, che non parte dall'IVV, ma che con l'IVV è una tappa importante, che avrà altrettante tappe importanti in altri paesi, in altri contesti, in altre esperienze storiche rivoluzionarie, che oggi sembra ridotta ai minimi termini, ma che sulla quale vale la pena di discutere. Io non spenderei tante altre parole, l'idea era quella di una celebrazione, 100 anni dall'inizio di un'esperienza importante e credo ormai poco conosciuta. La rivisitazione di questa esperienza da parte dei compagni che sono seduti a questo tavolo, che sono Bruno Cartosio, Nando Fasce e Marco Genzone, che affronteranno la questione da diverse angolazioni, diversi punti di vista, e su questa diciamo così, ricostruzione storica la possibilità poi di aprire anche un dibattito che ci permetta di continuare a ragionare sulle nostre sorti, sulle sorti di quello che è oggi il movimento operaio, sulle sue possibilità di porsi come un soggetto forte e rivoluzionario ancora. Io, se non avete niente in contrario, finirei qui e do la parola a Bruno Cartosio.